Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. La strada è soprattutto dal mio punto di vista di chi la vive. Di chi è la strada? La strada banalmente è di tutti, ma soprattutto dei più deboli. La strada è come la democrazia, non è di chi urla più forte o di chi ha più soldi per imporre la propria idea o il proprio parere. La strada è di tutti. Nessuna società normale si può permettere queste tragedie che ci sono ogni giorno sulle nostre strade. Buon pomeriggio e buona domenica. Questo era un piccolo estratto del docufilm Gambe, prodotto dalla Fondazione Michele Scarponi in ricordo del campione marchigiano morto investito da un furgone durante un allenamento il 22 aprile 2017. Dedichiamo questa prima puntata del 2020 proprio alle vittime della strada, in particolare gli utenti più fragili, pedoni e ciclisti. Nel 2018 sulle strade italiane hanno infatti perso la vita 612 pedoni, 219 ciclisti. I dati del 2019 non sono ancora disponibili, ma le cronache, soprattutto quelle delle ultime settimane, purtroppo fanno pensare ad un aumento di questi numeri. E tantissime associazioni impegnate nella sicurezza stradale hanno unito le forze per organizzare una manifestazione a Roma il 23 febbraio, in cui chiederanno misure per contrastare questa emergenza. Partiamo allora da qui con il suo promotore Alessandro Malagesi, responsabile della sezione amatoriale regionale del Lazio per la Federazione Ciclista Italiana. Lui abbiamo chiesto appunto qual è l'obiettivo di questa iniziativa. Alzare l'attenzione dell'opinione pubblica su quello che sta succedendo in generale sul mondo della bicicletta. Oggettivamente sempre di più si parla di una vittima ogni 32-36 ore, questi sono i dati relativi al 2018. Cercare appunto di portare le istituzioni a capire che è un problema vero e proprio. Le vittime della strada non sono soltanto i pedoni, ma anche i ciclisti. Quindi state avendo in queste ore, con il passare delle ore, tantissime adesioni da parte di molte associazioni, no, per questa manifestazione? Sì, non soltanto le associazioni ciclistiche, ma anche le associazioni familiari vittime della strada. Anche i ciclisti urbani si stanno avvicinando alla manifestazione, quindi diciamo che il fronte si allarga, passami il termine, Alessandra. Tu sei comunque un ciclista, no? Insomma, uno che macina molti chilometri sulle due ruote. Come ti percepisci in strada? Qual è la tua esperienza? Insomma, ti senti comunque bella domanda, poco sicuro? Bella domanda. La sicurezza si comincia a perdere sulle strade per due motivi fondamentali: uno, il manto stradale; due, le auto. Questa è la realtà. Molte volte gli automobilisti si arrabbiano con i ciclisti perché stanno al centro della strada o in prossimità del centro della carreggiata, ma non considerano una cosa: che gli ultimi 20 centimetri della carreggiata ormai sono terra di nessuno, cioè pieni di buche, e di conseguenza un pericolo andarci sopra e cadere, allora uno è costretto ad allargarsi. Le macchine sono sempre di più, quindi non è facile convivere tra ciclisti ed auto, questo è poco ma sicuro. Secondo te dovessi indicare proprio una misura, no, tra tutte, che potrebbe essere considerata la priorità, quale potrebbe essere per tutelare maggiormente i ciclisti? Allora, guarda, la prima secondo me è presidio sulle strade da parte delle forze dell'ordine, perché sicuramente la presenza delle forze dell'ordine va un po' a tutelare la presenza di tutti gli utenti della strada, non soltanto dei ciclisti ma anche dei pedoni. E poi la tecnologia: ci sono ormai macchine che hanno dispositivi di sicurezza o anche di ormai optional come la telecamera inferiore, perché c'è un radar. Nulla vieta di installare un radar che segnali anche i pericoli davanti, vale a dire sia pedoni che ciclisti. E ci sono delle misure contenute nella riforma del codice della strada che potrebbero dare un deciso contributo alla sicurezza stradale e alla mobilità ciclistica. Una riforma approvata dalla Commissione Trasporti della Camera lo scorso luglio, che però è ancora ferma in Parlamento in attesa di essere calendarizzata. Tra queste misure, sanzioni più severe per chi usa il cellulare alla guida, istituzione delle strade scolastiche sicure con moderazione della velocità e limitazione del traffico, ma anche la distanza minima di sicurezza multa di 1,5 metri in caso di sorpasso di un ciclista. E di questa misura in particolare vogliamo parlare oggi con Alessandra Cappellotto, vicepresidente dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Abbiamo visto che in tutti i paesi in cui questa norma esiste, ma non solo paesi extraeuropei, ma anche paesi molto simili all'Italia, per esempio la Spagna, dove esiste questa legge, i morti sulle strade sono veramente crollati, quindi è qualcosa che è assolutamente necessaria in Italia. Quindi non basta dire prescrivere un'adeguata distanza laterale, ma è necessario quantificarla. Secondo voi? È necessario assolutamente quantificarla, perché come diceva una delle nostre associate, Vittoria Bussi, che è la ragazza che ha il record dell'ora e che ha incontrato il nostro premier. Eh sì, gli ha fatto vedere questo cartello, no? Con un metro sì, e mezzo. Sì, ha consegnato il cartello del metro e mezzo. Lei ha detto giustamente, Bussi, che le persone, gli autisti, non sono consci, non capiscono veramente quanto pericoloso sia superare un ciclista, e dare loro una idea serve assolutamente per renderli coscienti di cosa devono fare e quindi della distanza da mantenere. Chi critica questa misura dice poco quantificabile, quindi anche non sanzionabile se non a posteriori con eventuali perizie, magari anche un po' complicate, però ecco, anche secondo me serve comunque per sensibilizzare, per creare anche maggiore coscienza, no? Se si sa che 1,5 metri, magari uno magari si allarga anche un po' di più del 1,5 metri, no? Esatto, è una questione veramente di cultura e di abitudine, non è questione proprio di quantificare il centimetro, è questione di rendere l'idea. Senti, altre obiezioni, no, che vengono mosse, che i ciclisti a volte sono un po' indisciplinati, magari non vanno in fila, insomma occupano tutta la carreggiata, tu che ne pensi? Allora, penso che in effetti ci sono anche i ciclisti indisciplinati. Noi raccomandiamo ovviamente a chi usa la bici di seguire strettamente il codice della strada. La Federazione Ciclistica Italiana stessa fa tantissimi corsi di aggiornamento a tutti i ragazzi, a tutti gli utenti, e cerca di promuovere veramente un modo corretto di usare la bicicletta. Certo è che non si può usare la scusa i ciclisti sono indisciplinati, perché i ciclisti sono anche deboli, mentre una macchina indisciplinata esce di strada e si ammacca un po', se tocchiamo un ciclista, il ciclista possiamo veramente ammazzarlo. L'altra cosa che noi per esempio stiamo facendo con i ciclisti è quella di promuovere l'uso delle luci, sempre accese anche di giorno, l'uso del casco, l'uso di colori nelle magliette e nel vestiario visibili. Stai sul volante come andassi in guerra, ammazzeresti tutti con una bomba. Se avessi un mitra al posto della tromba, saresti il terrorista dello stress. Insomma, a volte le auto possono trasformarsi in armi davvero pericolose, e al di là delle singole misure da adottare, quello che manca è spesso una cultura del rispetto. Giordano Biserni di ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, associazione che ha anche un portale dedicato alla sicurezza stradale. La soluzione è il senso civico, che in questo paese è scomparso dalle scuole, è scomparso nella comunità, è scomparso soprattutto nella strada. Quando lei vede aggressioni fra automobilisti da far paura, quando lei vede automobilisti che usano il cellulare in maniera indiscriminata, perché attenzione, il ciclista si va a scontrare con la distrazione dell'automobilista che usa il cellulare, a volte lo usa pure il ciclista, l'uso dell'alcol, condizioni che veramente sono da parte di molti automobilisti, sono condizioni di rischio che è di anche in civiltà. Lei pensi, mancato uso degli indicatori di direzione, ormai sono scomparsi. Io mi domando a volte se le macchine ancora montino gli indicatori di direzione, cosiddette frecce. Quindi tutto questo insieme di situazioni mi fa dire che è difficile intervenire se non aumenta il senso civico. Il cittadino corretto deve rispettare le regole da pedone, da ciclista, da automobilista. Invece noi siamo ancora gasman, noi siamo quel gasman dei mostri che quando è sulle strisce dice oh fermate qui devo passare io, poi gira l'angolo, sale sulla 600, arriva come un missile, per poco investe il pedone che è nel posto dove era lui prima. Quindi se noi non ribaltiamo questa condizione, la vedo un po' dura, visto che anche la vigilanza sulle strade è, per essere anche abbondanti, è saltuaria, per non dire peggio. E insomma, torneremo a parlare di questo tema anche approfondendo le altre misure previste da questa riforma del codice della strada. Intanto potete riascoltarci sempre su podcast sul sito di Radio 24 o sull'app. Buona domenica, buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.